Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, gli stili e le prospettive di vita mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 690 e parleremo ancora di orsi, ma anche di cinema, di condizione dei mari, di azioni dirette non violente. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura del tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. Alla fine l'orsa JJ4 è stata catturata e ora si trova imprigionata al Castellare, l'area verde alla periferia di Trento, utilizzata come luogo di detenzione per i plantigrati catturati perché considerati problematici. È con lei nello stesso recinto M49, l'orso che per 3 volte è riuscito a evadere da quel carcere. JJ4 è responsabile dell'uccisione il 5 aprile scorso di Andrea Papi, di 26 anni, un giovane che stava correndo nel bosco quando ha incontrato l'orsa. Secondo il presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, sarebbe stato necessario uccidere anziché catturare JJ4. La sua ordinanza è stata però sospesa dal TAR e così le guardie della provincia si sono limitate ad arrestare l'orsa, in attesa che lo stesso TAR, l'11 maggio prossimo, decida nel merito dell'ordinanza e stabilisca se la sentenza di condanna a morte, decisa su 2 piedi, dal presidente Fugatti, sia davvero legittima. Fugatti intanto ha firmato anche una seconda ordinanza di messa a morte per uccidere un altro orso, giudicato problematico. Anche su questo punto è facile prevedere ci sarà battaglia legale. Da una parte Fugatti e il suo decisionismo mortale, dall'altra le associazioni animaliste, ma anche tutti o quasi gli esperti, e perfino la famiglia di Andrea Papi, che non vedono il senso e l'utilità dell'uccisione di JJ4, se non per dare sfogo a un sentimento di rabbia, a un desiderio di vendetta, e sempre che tale decisionismo non celi in realtà la ricerca di un diversivo, per evitare che la riflessione si concentri sulle responsabilità della provincia nella gestione, tutt'altro che brillante e corretta, del progetto Life Ursus di reintroduzione dell'orso, curato a suo tempo dallo stesso ente locale. Ha detto per esempio ai media Carlo Papi, il padre di Andrea: qualcuno deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità della morte di Andrea, a costo di fare un passo indietro rispetto al ruolo pubblico che ricopre. Nessuno si è ancora fatto vivo per chiederci scusa, per spiegarci le cause che hanno contribuito a creare le condizioni di questa tragedia. Il governo attuale della provincia, come quelli che l'hanno preceduto, hanno il dovere di chiarire, assieme allo Stato, se è stato fatto il possibile per garantire la sicurezza. La morte di Andrea, dice ancora il padre, si poteva evitare. Le istituzioni non hanno fatto niente per spiegare alla gente come comportarsi con un numero così alto di orsi. Hanno lasciato tutti ignoranti e tranquilli. Nessuno ha chiesto alla gente se condivideva la reintroduzione degli orsi. Nessuno ha fatto il necessario per renderla compatibile con la nostra e la loro vita. Oh, did he bear? Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. La vicenda di JJ4 e la tragedia di Andrea Papi sono diventati un caso mediatico e politico nazionale e si parla oggi degli orsi come di un pericolo incombente in tutti i boschi del Trentino, con toni esasperati e l'evidente intento da parte del presidente della provincia di Trento di affermare, a spese dell'orsa e anche del buon senso, una propria immagine di risolutezza. Del resto il potere di dare la morte, come il lasciar morire, vite giudicate poco importanti, sono da sempre la massima espressione del potere. Ma colpisce in questa miscela di politica e di performance la sproporzione fra l'attenzione data a questa tragedia rispetto a quella riservata ad altri episodi non meno gravi, avvenuti nelle stesse zone poco tempo fa, ma per responsabilità totale di persone umane, senza coinvolgimento di animali selvatici. L'ho fatto notare anche Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera il 19 aprile scorso, nel quale ha fatto notare che l'assassino che a novembre ammazzò con un colpo alla nuca fra i boschi della stessa Val di Sole, a pochi chilometri di distanza, il giovane cacciatore Massimiliano Lucietti, è ancora libero. E certo non è stato braccato in questi mesi con la stessa tenacia e lo stesso accanimento da cacciatore di taglie nei confronti dell'orsa. Sproporzione aggravata dal fatto, continua Stella, che il cacciatore Maurizio Gionta, che aveva scoperto il corpo del poveretto, si uccise il giorno dopo lasciando un biglietto: «Non attribuitemi colpe che non ho». Parole che avrebbero ulteriormente confuso la ricostruzione dei fatti. Tema: vi pare normale che i giornali e le agenzie abbiano dedicato in 5 mesi un grappolo di articoli sempre più piccini al giallo dei 2 cacciatori morti e centinaia di servizi al tragico incontro fra Andrea Papi e l'orsa con 3 piccoli? Ci sono numeri, spiegano gli ambientalisti, che dicono tutto, in particolare quelli dell'Associazione Vittime della Caccia. L'ultimo rapporto per la stagione 2022-2023 dice che i morti, cacciatori e non cacciatori, uccisi, fra virgolette, per errore, sono stati 22, i feriti 57. E pone una domanda: vi sembrano pochi? Così, Stella, il nostro sospetto, non da ora, è che tanto accanimento contro gli animali selvatici, gli orsi ma anche i lupi, i cinghiali e così via, sia anche il riflesso di un astio profondo, legato al fatto che questi animali, nel mondo presente, sono gli ultimi, forse gli unici individui liberi, liberi ben più di noi, che viviamo in società sempre più controllate, condizionate da sistemi di potere nascosti nelle pieghe del consumo, devote all'ideologia economica dominante che ci vuole passivi consumatori e non già cittadini consapevoli. Odiamo i selvatici come società organizzata, perché in fondo li invidiamo. Abbiamo chiesto a Zenone Sovilla, giornalista e naturalista, corrispondente di Restiamo Animali dal Trentino, di fare il punto sulle riflessioni e le proposte delle associazioni ambientaliste e animaliste sul caso degli orsi, fuori dai proclami e dalle cortine fumogene di queste settimane. Il mondo dell'animalismo e dell'ecologismo in sostanza sta ribadendo in questi giorni ciò che da anni si è detto per sollecitare la provincia autonoma di Trento, ma anche le realtà limitrofe e lo Stato, a un salto di qualità nel progetto di reintroduzione degli orsi nelle Alpi. Si rimprovera all'ente pubblico di avere, al contrario, disinvestito in termini di risorse umane, competenze e strumenti a disposizione. Strumenti per favorire una convivenza non problematica fra gli orsi e le comunità umane nelle vallate interessate. Dunque, strumenti lacunosi. All'idea di procedere solo con abbattimenti di esemplari ritenuti problematici o alla complicatissima ipotesi di deportare chissà dove la metà degli orsi del Brenta, si contrappone, da parte delle associazioni, un progetto più articolato e ovviamente più impegnativo. Un progetto che implica intanto un monitoraggio puntuale, più preciso, degli spostamenti degli orsi per verificare se si muovono in aree molto antropizzate e di conseguenza pensare all'eventuale chiusura temporanea di aree specifiche o di singoli percorsi in montagna in modo da prevenire i rischi di involontari incontri ravvicinati. Ciò in particolare per quanto riguarda le orse con cuccioli, come la JJ4 del Monte Pellera a Caldes. Il monitoraggio servirebbe a disporre eventuali chiusure parziali o totali di ambiti territoriali, anche se bisogna vedere come reagirebbe la cittadinanza a queste ordinanze. Però il monitoraggio sarebbe prezioso anche per la semplice attività costante di informazione pubblica sulla presenza degli orsi, cartellonistica, avvisi, brochure e quant'altro. Orsi che, come hanno ricordato in questi giorni diversi faunisti, sono animali paurosi e pronti alla fuga. Se avvertono l'arrivo di un umano, vanno, scappano. Una campanella appesa allo zaino o ai pantaloni può bastare per avvisare e spaventare il plantigrado nel bosco, in una strada, in un sentiero. Il problema sorge in caso di incontri improvvisi, quando l'orso non ha tempo per fuggire. Dunque, formare residenti e turisti sui comportamenti corretti è un altro aspetto su quale insistono le associazioni. Dicono che bisogna fare di più, ciò sia per le modalità di frequentazione dei boschi in aree sensibili con la presenza degli orsi, sia per esempio per quanto riguarda questioni come l'abbandono di cibo che attira gli orsi verso i centri abitati. E solo in ritardo e in poche zone in Trentino sono presenti per esempio i cassonetti dell'umido adeguati, cioè protetti, in modo che l'orso non senta gli odori e comunque non possa cibarsi di ciò che contengono. Questo è un altro tema importante, così come l'abbandono in generale di cibo nei boschi e nelle aree sensibili. È fondamentale anche convincere gli allevatori a mettere in atto tutti gli strumenti difensivi, a cominciare dai cani da guardiania e dalle reti elettrificate o soprattutto i ricoveri notturni per proteggere i propri animali dalle predazioni. Poi si ricorda che laddove nella gestione e nel controllo degli orsi le cose funzionano meglio, per esempio in aree del Nord America, l'ente pubblico investe ingenti risorse sia in termini di team specialistici sia di agenti forestali. Si sollecita il Trentino a fare altrettanto. In questo modo sono possibili anche efficaci interventi, per esempio di dissuasione, con tecniche ormai ben collaudate, per indurre un orso troppo confidente che si avvicina agli abitati a spostarsi definitivamente più in alto, altrove, in zone non popolate. In questi giorni si è discusso anche della legalizzazione dello spray speciale al peperoncino, sia per dotarne il personale che opera sul terreno, sia per la generalità delle persone che frequentano le aree sensibili. In Nord America e in vari paesi europei è permesso l'acquisto di questo dispositivo. E questo oggetto, solo temporaneamente irritante, proprio in Nord America, secondo le statistiche, ha risolto in modo indolore ben il 92% degli incontri a rischio orso-umano e nel rimanente 8% dei casi in cui invece c'è stato un contatto era solo perché lo spray non si trovava a portata di mano e quindi si è perso tempo. Bisogna tenerlo proprio vicino, nel marsupio, attaccato ai pantaloni, non dentro lo zaino dove è più difficile da estrarre. Questo l'ha spiegato tra l'altro in questi giorni sulla stampa locale Alberto Stoffella, un ex forestale che lavorò al progetto Trentino fin dagli esordi, oltre 20 anni fa, e che dunque ha espresso vari dubbi su come poi si è sviluppato questo progetto nel corso degli anni. Running back, love little white dove, with a love big as the sky. Running back, love little white dove, with a love that couldn't die. A proposito di Life Ursus, va sottolineato che le associazioni puntano il dito anche contro la mancata creazione di corridoi ecologici, quelli che dovevano favorire la dispersione verso le aree alpine limitrofe degli orsi introdotti dal Brenta e arrivati dalla Slovenia. Pochi maschi se ne sono andati oppure vanno e vengono. Le femmine sono quasi tutte stanziali nel Brenta, anche perché attorno va ricordato che ci sono soprattutto territori ostili. L'Alto Adige, la Svizzera e l'Austria non vogliono gli orsi. E in vari casi i plantigradi in questi territori sono morti. Forse con la Lombardia è possibile un confronto, ma anche su questo tema cruciale in due decenni non si è fatto sostanzialmente nessun passo avanti. Ciò, secondo alcuni faunisti, sta creando anche dei problemi dal punto di vista genetico nella riproduzione degli orsi, un dato che si aggiunge alla probabile frustrazione legata alle limitate dimensioni del territorio disponibile, a fronte di un numero crescente di individui. Questo, ipotizzano alcuni esperti, potrebbe spiegare anche perché solo negli ultimi 8 anni si sono verificati attacchi verso esseri umani o anche infanticidi di orsi cuccioli da parte di maschi adulti. In qualche esemplare potrebbe essere aumentato via via uno stato di tensione. Nel vicino Veneto, il WWF, a fronte di quanto accaduto in Trentino, ha chiesto alla giunta regionale di valutare scientificamente l'ipotesi che alcuni orsi del Trentino possano essere trasferiti in Veneto. Qualche maschio, fra l'altro, si muove spesso dal Brenta fino al Parco delle Dolomiti Bellunesi, ma poi torna indietro. Un piano di fattibilità potrebbe favorire invece un corridoio per un trasferimento permanente dei nuovi orsi che nascono in Trentino verso, per esempio, appunto, le zone più selvagge del Veneto, come è buona parte del Parco delle Dolomiti Bellunesi. In ogni caso, la strada dei trasferimenti pare molto ardua e comunque non è così che si migliora la qualità del progetto Trentino, dicono gli esperti. Se si crede nella necessità di questo piano per la biodiversità sulle Alpi, bisogna invece investire in un rinnovato impianto di gestione del piano faunistico trentino. In realtà però, da quasi una 20 anni, chi governa la provincia autonoma di Trento ha messo in mostra un atteggiamento fra l'indifferenza e il fastidio per il progetto dedicato agli orsi, il che dovrebbe spiegare come mai sono mancati gli investimenti sui vari fronti richiesti da anni dalle associazioni. Alcune delle quali, certamente non tutte, nella ricerca di un dialogo con le istituzioni non hanno nemmeno escluso che come estrema ratio, ma solo davanti a prove convincenti, si possa anche arrivare alla rimozione di un singolo esemplare, se davvero problematico, come prevede il piano di azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno, il famoso Paco Bace. Insomma, c'è anche volontà di dialogo e purtroppo invece c'è solo scontro. Le associazioni, così come diversi esperti indipendenti, non hanno mai fatto mancare la propria disponibilità a collaborare e a aiutare il Trentino a trovare soluzioni diverse. Ma le classi dirigenti locali, sostenute tra l'altro dal mondo dell'allevamento, ma forse non dalla maggioranza della popolazione, finora hanno mostrato di preferire un approccio semplicistico, opaco nella comunicazione, e non sembrano intenzionate al momento a cambiare rotta. Liverpool, un gruppo di attivisti animalisti ha inscenato una protesta che ha evocato in noi ricordi storici importanti, legati a un'antica lotta tutta umana di emancipazione. Il fatto è avvenuto all'ippodromo di Aintree, dove 188 persone sono state arrestate dalla polizia per aver ritardato, entrando in pista, una importante corsa di cavalli, il Grand National. I manifestanti di Animal Rising intendevano protestare contro queste corse, così veloci e così pericolose, che di frequente portano alla morte animali in gara. Animal Rising ha riferito che almeno 2 manifestanti sono riusciti ad attaccarsi a un ostacolo sul percorso. Poi però sono stati portati via e la gara è partita con un quarto d'ora di ritardo. Il suo svolgimento, in seguito, ha dato piena ragione, tragicamente, ai manifestanti, visto che uno dei cavalli, Hill 16, è morto dopo una caduta al primo ostacolo. Ed è stata la terza morte di un cavallo, nell'arco di un unico fine settimana. Dicevamo che questo episodio ci riporta alla mente altre vicende, in particolare la figura di Emily Davison, protagonista del movimento delle suffragette, che si battevano in Inghilterra all'inizio del Novecento affinché fosse introdotto il diritto di voto per le donne. Una lotta di civiltà e progresso condotta con enormi sacrifici e al prezzo del carcere e in questo caso anche della vita. Infatti Emily Davison, il 4 giugno 1913, 110 anni fa, entrò in pista al derby di galoppo di Epsom per manifestare in favore del voto femminile durante una gara di cavalli cui assisteva il Gotha della società britannica del tempo, inclusi i reali. Ed Emily fu travolta da Hammer, il cavallo di re Giorgio V, il quale, stando alle cronache del tempo, si preoccupò del fantino e del cavallo, mostrando disappunto per il contrattempo e la giornata rovinata. Giorgio V del resto era un grande reazionario e anche un grande cacciatore, protagonista di ignobili safari nelle varie lande dell'impero, con centinaia di animali inutilmente uccisi, a gloria di un sovrano del tutto estraneo ai cambiamenti in corso nel mondo e nel suo stesso paese. Il nostro pensiero va a Emily Davison, la cui vicenda, ricordiamo, compare nel film di Sarah Gavron, Suffragette. From the first time that she really done me, ooh, she done me, she done me good. I guess nobody ever really done me, ooh, she done me, she done me good. Sempre questa trasmissione dedica molta attenzione alle tematiche ecologiche, allo stato di salute del pianeta Terra, nella convinzione che umani e altri animali, così come le piante, siano esseri viventi che devono costruire nuove forme di cooperazione per preservare habitat favorevoli alle rispettive esistenze. Sappiamo che le attività umane, l'industrializzazione parossistica, il consumo spinto fino oltre i limiti della sopportabilità, stanno compromettendo il futuro della nostra e di altre specie. Perciò siamo dalla parte di chi si batte per fermare e cambiare nel profondo il sistema produttivo e di consumo oggi dominante, così distruttivo e così senza futuro. Un sistema che produce situazioni come quella riscontrata nell'Oceano Pacifico, dove un gruppo di studiosi del Centro di Ricerca Ambientale Smithsonian ha scoperto che le isole di plastica composte da rifiuti galleggianti in mare aperto cominciano a diventare habitat per alcuni animali marini, che normalmente vivono sulle coste, tanto da aver dato vita a nuove forme di comunità. È una notizia che da un lato dimostra la capacità di adattamento di certi animali, ma che dall'altro testimonia quanto sia assurdo e nocivo il sistema economico nel quale siamo immersi. Oltretutto, se certi animali marini si stanno adattando alle isole di plastica galleggianti, molti altri sono invece danneggiati, soffocati, uccisi da plastiche e reti. I ricercatori, raccogliendo 105 campioni di detriti durante una campagna di studio fatta fra il 2018 e il 2019 nel Pacifico settentrionale, hanno trovato la presenza, nel 70% di questi detriti, di specie che normalmente vivono lungo le coste, in particolare piccoli artropodi e molluschi. C'è quindi un sensibile cambiamento di comportamento in corso. Gli autori suggeriscono che queste comunità sarebbero in grado di riprodursi, divenendo in qualche modo stabili, dando quindi vita a nuovi piccoli ecosistemi che possono essere definiti come comunità neopelagiche. Ma nell'insieme non è una buona notizia. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full. Anche questa settimana Gabriele Palloni ci propone una ricetta scelta prendendo spunto dalle notizie della puntata. Vi ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ha pensato per noi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Liverpool ci ha regalato i Beatles, il Liverpool Football Club e Clive Barker. Solo per citarne alcuni, ma questa è una rubrica di cucina, quindi parliamo di una delle delizie che da Liverpool arriva nel nostro piatto, cioè il Wet Nelly. Gli ingredienti per una teglia di 15x20 cm sono 300 g di pan bauletto bianco senza i bordi, anche raffermo, 100 g di uvetta, 100 g di zucchero di canna, 500 ml di latte vegetale, 200 g di farina tipo 0, 30 g di olio di semi di girasole, un cucchiaino fra curcuma, cannella e noce moscata in polvere e un pizzico di sale. Mentre per la crema, 200 ml di latte di soia, 50 g di zucchero di canna, 20 g di amido di mais, della vaniglia, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale e una scorza di limone. Una volta tolta la crosta del pan bauletto, tagliatelo a quadretti piuttosto grossi che immergerete nel latte vegetale, caldo, fino a quando si sarà completamente ammollato e ammorbidito. Nel frattempo preparate la crema, stemperate l'amido di mais con latte di soia a temperatura ambiente, unite lo zucchero, la vaniglia, la curcuma, il sale e la scorza di limone. Mettete sul fuoco a fiamma bassa e lasciate addensare mescolando con una frusta. Quando la crema avrà raggiunto la consistenza desiderata, togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Recuperate il pane, senza togliere il liquido, aggiungete tutti gli altri ingredienti. Mescolate bene e versate in una teglia rettangolare con i bordi alti che avrete precedentemente spennellato di olio. Cuocete in forno statico a 180 gradi per circa un'ora. Il dolce dovrà risultare morbido ma compatto. Lasciate intiepidire, quindi tagliate a quadretti che servirete coprendo con la crema. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Anna Granata, Valentina Reggioli, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.